si è mai bruciato nulla. A me è successa un'altra cosa, che avevo fatto. L'ho messo nel forno, ma no, era già cucinato, l'ho messo nel forno e stasera me lo mangio. Me ne sono dimenticato. Io dopo, se posso dire, 10 giorni a parte il forno, ai carità, no, meglio niente. Si è frangicato. Per avviso la buffa sopra, ma carità, che schifo. Comunque tu non devi chiamare il doppio ru. Adesso ti mettiamo un nuovo nominativo come Protollella. Oh, Torino, a me mi è successa un'altra. Quando la mia ex moglie stava partorendo, che ero solo a casa, ho detto, ma adesso mi faccio 2 uova sode e me le faccio in salata. Prendo, metto queste uova sode, vado nel divano, mi guardo il televisore, sto mentre che cucinano, mi guardo il televisore, mi trovo. Poi mi sono alzato e mi sono ricordato delle uova, che tu vado a vedere, c'era tutta l'acqua consumata e le uova non c'erano più, erano attaccate al soffitto, sono scoppiate e si sono attaccate al soffitto. Il gas è sempre acceso. E allora, sempre acceso, il gas sì. L'acqua si è consumata tutta quanta, te cammino nero, cazzo, le uova sono esplose. Proprio catena appiccicata, e va appiccicata al soffitto. Questo si è sognato un tantissimo tempo fa, la buon'anima, aveva messo il suo affare, si è dimenticato, si è riuscito. Quando ero entrato, dice, cazzo, una casa mi sei incendiato, truffo fuci del vapore, alto sopra il vino, il pergamino nero, asciutto, non era più una compagna, non era nulla, secco, tutto il fumo nero in cucina. Un giorno sono andato da questa signora a consegnare la spesa, praticamente ho trovato i pompieri, cazzo, ambulanti, chi c'è di cazzo, e adesso stesso. Si è dimenticato la signora le melanzane nella padella, le stava friggendo e hanno preso fuoco, l'olio già lo sai com'è, micidiale, piglia poco giù, ha preso fuoco la padella e le si è incendiata a mezza gaggia, oltretutto lei è andata a cercare di spegnere l'incendio e si è bruciata, quindi l'hanno dovuta portare via l'ambulanza. O se no quel che sento che addirittura il materasso elettrico per scaldarsi si è incendiato. Io con le cose non uscirei mai, mai, mai e poi mai, vado a fare sì, vai, vai. Mi hai tolto le parole da bocca, io non le metterei mai di queste cose, perché basta un corpo, una cosa, non si sa mai. Abbruzzolito. Glielo grido io. Questo qui è il microfono che ho fatto io, Tony, come esce? 1, 2, 3, 4. Un microfono normale? È ottimo, dai, prendo 5 se siete anche un po' l'eco. Vabbè, l'eco dell'apparato, però questo qua c'è l'esterno del microfono originale, l'interno di un altro microfono. No, già va bene, che voglia. A me invece Leon ha dato una di quelle lampade tipo stile antico che vanno fuori. Dove ci aveva era tutto messo male, adesso lo devo togliere tutta la radice e rivedere come si deve, perché è messo troppo male, gara. Tu pensa che la radice ne esce pure gomito, si è gonfiata pari muffata e ne esce. E per quello non ci vuole nulla, basta levigarla e riverniciarla, cosa ci vuole? Tony, cosa ti stavo dicendo, ma è di quelle lampade che si attaccano al muro? Carta. Ho capito, quelle che si usano in campagna, davanti alla porta, così. Meglia. Sì, in effetti c'è il portalampada che è mezzo affilato, fatto nuovo. C'è una vita che non esce, il casino per il coperchio di sopra, e mi sono fatto bene. Adesso vediamo cosa faccio. Ho quella pizza che so io scatto, che forse riesco a toglierla. Sta bagata, va bene, dai. Piano piano ti appenti, tanto non c'è nulla da fare. Infatti volevo fare il sotto veranda, è un tempo di meglio, pure la veranda mia è un collaboratore già, quindi un casino. Ehi, va bene. Andare, Tony, e da devi va. Quando ne voglia te la fai con calma. Sì. sì, infatti il maestro è noto che fretta non ne ha, capito? Quindi problemi non ce ne sono. Ah, ma non te l'hanno regalata? No, maestro, se la carica è sua, maestro, se la potevo riprendere, dato che io ho le mani d'oro, ma ho fatto la porta che è rimasto contentissimo, anche la moglie ho fatto il cancello, e gli ho levigato, tutto riverniciato, sto bello, poi Franco California gli ha fatto il resto, capito? E che... ma il tuo principe non è il tuo padrone di casa? No, ora non ho dei punti, ho detto mio. Ah, ho capito. Capito già chi è. E niente, poi ho sceso io la mia salvatrice, nuova roba, Franco l'ha usata, dice bella, bella, teia. E poi l'ho rimessa a posto, nella scatola di una conservata. Cioè, beh, l'attrezzatura ancora non l'ho usata, era Virginia quando l'ho usata a Franco. Certo. Ho anche una sega circolare da blanco nella scatola, penso a poco. E a chi tu devi bigliare covoti, chi si cose, magari ti rimuni, non le acciappi di bigliare. Guarda che per fare la porta di Raimondo, io ho quella... specie di ballerina, non è ballerina, che ha le cose che col feltro si attaccano, capito? Che vibra bella. Siccome non me la trovavo, santo, mica me l'ha comprata un'altra. Arrivavo a casa, ho tutto fatto, rimetto questa levigatrice, apro la casetta lì, guarda che c'è fuori, te trovo davanti agli occhi, ma va a fare un culo. Sono le due uguali, e vabbè, già servono, dai. Sì, ma che non lo userai mai? No, lì l'ho usata, devo usare per una passidolina che mi hanno regalato, piccolina, bella. Devo fare anche per quella. Avevo ragione, mi figliuro, quando l'ho detto, ascolta Ivan, quando sono più grande che ancora non riesco più a usare questa attrezzatura, ti regalo tutto a te. E ho detto, gioco, Marco, pigliamo un tiro. Ah, a vero. Però guarda, allora praticamente ne ho fuori nella casetta che sono riuscita eccetera, non ne ho né l'armadio, sotto il letto, né i mobiletti che ne ho fatto io in cucina, un vennaggio. Allucinante. E vabbè già, ho fatto vedere una cosa bella e la compravo, non parliamo delle luci LED, adesso il gruppo. Ho messo tutta l'illuminazione esterna a pareri solari fuori. E niente. Ha giubriato con il padrone in casa. Adesso non mi pago neanche più la luce. Tanto, quando me la staccano? Attacco il gruppo, sono a posto. Il contatore è 3 kW, il gruppo è 8 kW e mezzo. Sta accendendo tutto. Ma leggermente se funziona il gruppo elettrogeno? No, mi arriva la batteria questi giorni che mi ha preso mio figlio da Amazon perché durante il trasporto me l'hanno rubata. Mentre te l'ho trasportata, no? Ma è l'SDA perché mi ha dato una scatola mezza aperta. Io ho fatto male, non dovevo neanche ritirarlo. E infatti, lo dovevi rispedire indietro. Amazon ti rimborsa, se l'hai preso da Amazon ti rimborsa. No, il gruppo ha preso un'altra parte. Amazon la batteria ha fatto mio figlio, che chiediamo il codice, io non ce l'avevo. Allora l'ha chiesto mio figlio. Gli ho mandato i soldi tramite quel telefonino e quindi praticamente lui l'ha già ordinata e lì è anche arrivata. Adesso la sta spedendo a me per andarci io, insomma io consumo 50 euro di benzina, capito? Che tu vengo domani, no, no, no. Papà, arriva lì, ce l'ha, trasferisco io, dai, ci puoi sera, trasferisco io, vabbè. Ma infatti, almeno che debba andare a trovarlo, è un altro discorso, e fai l'uno e l'altro. Ma c'era la settimana scorsa, c'era. Vabbè, spediti tu lì, se te lo spedisce, consigliere. E già, vabbè, lascia vedere così. Troppo forte qua, allora, abbasso così, dai. Così stai nelle scale? Allora, le scatole perché mi sono avvicinato al macchino. Cavagato. Comunque già esce un bel forte col microfono. Ehi, Ora. Ora. Innesca però, aspetta. Ora. Com'è così? Prova. 1, 2, 3, prova di modulazione. Forte è chiaro. Se lo lasci così è molto forte, però è chiara. Ecco. sono distante, diciamo, dal baracchino almeno 50 centimetri o 60 buoni buoni. Distante la bocca ci sono esattamente 40 centimetri. Per farti un esempio, sempre con le MC 60, come esce Claudio con le MC 60, così? Ecco. Sì, questo microfono c'aveva che cosa, continuava, ce lo sai Gianfranco. E usciva ben forte, lui c'aveva il baracchino, l'LMS 200. Sì, me lo ricordo. E io mi ricordo allora che usciva forte. Poi c'è quell'altro che modula zona. Aspetta che passo un po' così. Viene Sicilia con la zona sopra il cuore, insomma, con lo Franco che c'ha l'osciure. Esce un bel fatto lo stesso. Cava, sì, Franco, esce un bel bene. Ecco perché io ho cercato l'osciure. E ne altri? Non lo so, ha fatto un mobile, lo sportello in basso, me l'ha preso e me l'ha dato. Cava. Anche l'MP4 esce bene, dai. Sì, ma è tutto un altro discorso. Sto dicendo che questo esce come se fosse un MC 60. Ecco, ma come esce Claudio più o meno, vai, forte. Eia. E non c'è l'MC 60? Sì, sì. Ma sono microfoni buoni, dai. Ecco, adesso ho sollevato la testolina, insomma, perché c'è il coso... Lo sto pulendo dalla polvere. E serve per mazzo. È poco sensibile che. Ehi, quelli erano microfoni buoni, sono di un bel di anni ma funzionano sempre bene. E anche la capsula è buona già. Quello è. La capsula del microfono è. Che spinge. Oh, oggi voglio mangiare leggero, va. Perché con il ravioli mi sono buffato, va. Stamattina ce l'aveva 90 io. Allora, io mi svato ieri notte e ho 112. Io va bene 112, là. Sì, ma altrimenti quasi nulla, dopo di verdure. Ma te l'avevi venuto 112 abat? Non ho capito, 112 abat? Ma te l'avevi venuto? Gianni, sinceramente, non mi ricordo che fine ha fatto, penso di sì. Cava. Sì, stavo, era una battuta, per il tempo che c'era più 112. Si è ricordato 112 abat. Io mi ricordo anche di Pietro Volvo, chissà che fine ha fatto. Ma perché non l'avevi venuto? Cos'hai detto? Ho detto, non l'avevi venuto poi, 112 abat, l'hai demolito. No, da un momento no, mi sembra che avevo versato un 112 per un'altra macchina. Ah, io me lo ricordo, cazzo, come ieri. C'aveva, cazzo, il tettuccio che si staccava, il tettuccio al cielo. All'interno? Sì. Camminavo con questa macchina mia. Cazzo, se siamo andati insieme una volta nella discesa di Marina e ho fatto toccare 180. Ehi, ma trovava a me. Io mi ricordo sono andato con mio cognato, il fratello della Vex, a Umbia. E ci ho messo 54 minuti. Allora c'era la mica, si trova dentro lo scritto. Poi avevo un'offerta 2000 turbo diesel, con le vecchie. E si avvicinava per sorpassarmi, trovavo le curve, io me ne andavo di brutto, sparivo. Poi dopo tanto arrivava lui, quando trovava il rettilineo, poi tiravo le curve, insomma. Era un bel cazzato, dice, non riesce mai a superarmi. La gara per toccare. E io ho preso appuntito, l'ho presa. Avvio Maria. Cazzo, vai Tony, io ti saluto che sto salendo a casa, sono arrivato e ci sentiamo dopo, vai, magari. E fatti sentire al telefono, magari, dai. Ciao. Ok, d'accordo, già, dopo cena, vai, ok. Ciao, torni bene e saluto gli amici di ascoltoni. Ciao.